senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scusi, lei mode di toni, perché a me mi rompe i coglioni e non me lo dice. Io spero e mi auguro, e vivamente mi auguro, che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle cose. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. Io non sono un'estimatrice proprio di cani, è un po' sostimata. Come mai in questi ultimi vent'anni l'Islam si sta impadronendo piano piano dell'Europa in base a dei merda, in base a dei governi di merda in quell'Unione Europea, gente che non ha nemmeno... Guarda, se tu... La profezia di Donato da Varese. Vabbè ragazzi, voglio iniziare con un'altra cosa oggi, caro Parenzo, so che ti sta molto simpatico il signor Donato da Varese. Ah, poveretto. Però la settimana scorsa in qualche modo è stato profetico su Parigi, devo dire la verità. Beh sì, si era espresso in maniera molto dura sull'Islam, quasi profetizzando un nuovo attentato islamico in Europa. Vabbè ragazzi, però voglio iniziare in un altro modo, perché mi stanno veramente rompendo i coglioni ancora una volta gli animalisti. Animalisti di tutti i tipi, e poi riprenderemo su Parigi, eccetera eccetera. Però la settimana scorsa sono stato ospite in un programma che si chiama Tagadà e ho detto una cosa sul fatto di mettere al centro della propria vita gli animali. Naturalmente molte persone mettono al centro della propria vita gli animali, ne conosco tantissime persone normali che hanno i cani, i gatti, e in qualche modo la loro vita è condizionata da questo. Per me è comunque questa una follia, glielo dico anche a loro scherzando, farsi condizionare le vacanze, farsi condizionare anche la piccola vita quotidiana, però uno sceglie di farlo per amore nei confronti degli animali. Per affetto va benissimo. Io parlavo di un'altra cosa, c'è quelli che proprio concentrano tutta la sua vita, tutta la propria vita su un animale. Questo dicevo a Tagadè. Chi mette al centro della propria vita un animale o gli animali, con tutto il rispetto, per carità, ognuno nella vita può fare quello che vuole, però è evidente che ha problemi col mondo che lo circonda. Per esempio, al centro della mia vita c'è un bel giovane, un bel signore che mi piace tanto, non è un animale. Io non sto parlando. Sono stato ovviamente insultato da un sacco di persone per questa cosa qui, ma la ribadisco, chi ha come proprio interesse principale, non di lavoro naturalmente, gli animali, è evidente che ha problemi relazionali col mondo, ma anche io ho problemi relazionali col mondo, per esempio, cioè su tanti aspetti. Però è una verità, cioè non c'è bisogno di alterarsi, cioè è una realtà, cioè la realtà è questa. Chi mette al centro della propria vita gli animali, ci sono problemi, ha problemi. Vabbè, una sola persona oggi vi voglio nominare in apertura di trasmissione, la signora Fiorella Mannoia. La signora Fiorella Mannoia, amico mio. La quale dice che la colpa di tutto quello che è successo, cioè Parigi, i morti, eccetera, è dell'Occidente. Cioè sono i potenti responsabili di tutto questo. Sono assassini come i terroristi. Cioè i governi, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, li nomina, l'Europa, tutti sono responsabili di questo casino in cui ci troviamo. L'Iraq, per quanto Saddam Hussein era un dittatore, per carità, io non lo metto in dubbio, ma comunque era uno stato laico. le donne andavano in giro a velo scoperto se ne avevano voglia e non c'era nessuna, certo, nessuna imposizione di estremismo religioso. E lo stesso valeva per la Libia. L'Occidente ha tutte le colpe per come la vedo io. Mannoia è il titolo di Libero, vabbè, questo è scontato, dai, cioè Mannoia contro il titolo, sì, di Libero, vabbè, insomma. Vergognoso, perché? Perché non si può generalizzare, naturalmente non tutti i musulmani sono così, non dobbiamo assolutamente cedere a questa paura e cedere a questo estremismo. State ben attenti, i paesi della NATO, Stati Uniti, Francia, Inghilterra e l'Europa, tutti responsabili della situazione perché, secondo la Mannoia, sono loro a correre dietro ad armi, petrolio, denaro, potere. Sono loro a correre dietro ad armi, petrolio, denaro, potere. Dunque sono allo stesso livello dei terroristi assassini, cioè gli stati occidentali, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, come l'ISIS. Ma come si fa a dire delle boiate del genere? Cioè, uno può dire, può dire che i servizi segreti hanno sbagliato, che in qualche caso l'ISIS, no, che sicuramente qualcuno ha tollerato troppo, la Turchia, quello che vi pare, ma mettere sullo stesso piano paesi democratici che possono commettere i loro errori, per carità, e terroristi assassini bisogna essere, non lo so, cioè, ma come le viene in testa una che viene considerata intelligente, no? Viene considerata pensata. Sì, ma è un artista. Cioè, un artista che però viene considerata qualcosa più di un artista, i politici, no? Forse questa roba qua, non lo so, quello che è peggio, quello che è meglio, è una boiata, basta, dai, è una boiata, punto e basta. Voci di musulmani prese credo da Quinta Colonna, gli amici di Quinta Colonna, voci di musulmani prese a Roma, certo non è che rappresentano tutti i musulmani. Però certo c'è da pensare, no? Quando uno dice hanno fatto bene con Charlie Hebdo, è giusta la rivoluzione islamista, l'Italia è un paese di infedeli, mettetene uno a caso, quello che volete. La prima, quello che hanno fatto Charlie Hebdo, per me quello è giusto, anche se hai fatto gli arabi, per me è giusto e bravi, perché loro l'hanno toccato il nostro profeta. Ci hanno fatto bene. Sì, hanno fatto bene, perché noi non c'entriamo niente. Ci hanno fatto bene a uccidere delle persone. No, non è di uccidere, però hanno fatto bene come hanno fatto un casino. Perché ma non hanno fatto solo un casino, hanno ucciso persone, entrati in vabbè. È una rivoluzione e ora tiene che insistere una rivoluzione islamista, perché... Ma è giusta o sbagliata? No, è giusta. La religione giusta è l'Islam. Lo possiamo leggere tutto, lo possiamo verificare tutto, corretto? E arriviamo alla giustizia che esiste nel libro sagrato che è il Corano. Protagonisti di questi giorni, intanto vi do il numero di telefono, potete mandare subito soprattutto audio, video, messaggi, quello che volete, 393, è molto facile, 393 e i primi tre numeri, vabbè, 71 71 701, 71 71 701, 393 71 71 701. Uno dei protagonisti di questi giorni caldi, drammatici, in cui si litiga anche qui per il titolo di un giornale, per un'idea diversa che si ha dell'Islam, moderato, no, non moderato, è un'idea diversa quella. Quello ha, come no, che non dire? È un'idea diversa, che è una bischierata bella e buona, un insulto gratuito, no, per te è un insulto, per te è un insulto, no, gratuito, no, l'idea diversa è un'altra cosa, sono titoli di giornali, ma no, sono titoli di giornali, ma non basta tornare su l'opinione pubblica, basta tornare su questa cosa però qua. È così. No, ma ci torniamo, basta, hai detto quello che pensi su questo titolo, io ho detto quello che penso, poi ci torniamo. Uno dei protagonisti di questi giorni si chiama Fabrizio Rondolino, buonasera. Oh, ciao Fabrizio. Buonasera. Allora Rondolino, cosa fa? Che la pensa come me sul libro di Libero. Sì, sul libro la pensa come te, sì, è una carognata, no, addirittura cosa. Una carognata, non credo che pensi che sia una carognata. Sì, una carognata, non credo che pensi buona. Che sia una bestemmia, pensi che magari è un errore, no Fabrizio? Pensa che è un errore, una bestemmia, non credo che pensi sia una carognata. No, penso che sia, sì, direi che lo definirei così, un grave errore di analisi politica, perché se noi pensiamo che, siccome quel titolo tende a dire, perché poi lui l'ha anche precisato, ma insomma tende a dire che tutti gli islami musulmani sono degli assassini bastardi, e questa linea qua è una linea che non ci porta secondo me da nessuna parte, perché aumenta il numero dei nostri nemici senza conquistare un solo alleato, mentre appunto, invece strategicamente noi abbiamo bisogno di loro, anche perché poi spesso e volentieri sono loro le... Sì, ma non è una porcheria, cioè il punto, o lo definisci una porcheria tu, questo voglio capire, perché secondo me no, non è una porcheria, porcheria. Ci no, sta, guarda, c'è un giornale, è un giornale che deve fare quel tipo di roba lì, se non fa quella quel tipo no, di roba lì. Carità. No, ma aggiungo anche che è rappresentativo di un modo di pensare. Ma è così che devono fare i giornali, a prescindere dal fatto che abbia ragione o torto. Che è diffusa, però appunto è un'opinione che secondo me va politicamente, culturalmente combattuta, dopodiché... Per carità, nessuna censura, io ho sentito addirittura di appelli per ma qualcuno vuole fare delle... esatto, qualcuno vuole fare delle manifestazioni sotto libero. Beh, no, no, questa è un'altra cosa. Ma come i giovani musulmani, io non chiedo la testa di ma pensassero ad altre cose, non fare mai i giovani musulmani, dai, su. I giovani musulmani, giustamente. Ma i giovani musulmani pensassero ad altre cose, a risolvere i loro problemi, che hanno all'interno dell'Islam. Ma quali offesi? Entrano offesi dagli assassini, non da libero. Dai, non diciamo stronzate. Si devono sentire offesi dagli assassini. No, no, non funziona così. Come funziona così? Funziona così assolutamente. Voglio dire che dentro questo dentro i valori dell'Occidente di cui noi so che noi difendiamo anche al prezzo del sangue ci sta anche che uno fa un titolo sbagliato. Esatto, assolutamente. C'è ha ragione Fabrizio. Ma certo no? Che c'è il diritto, nessuno taglia teste. Ma nessuno glielo vuole togliere. Sto dicendo che farebbero un errore se manifestassero contro libero. Sono in Occidente e usano le armi dell'Occidente che non sono le sciabole. No, devono pensare ai cazzi loro, devono pensare ai casini che hanno dentro l'Islam. Spiegare a un giovane islamico come deve manifestare, non usa le scimitarre, vabbè, usa un bel manifesto. Manifestassero, facessero quello che vogliono. Questo è vero. Ma certo, per carità, ma facessero quello che vogliono. Anzi, sto dicendo è un grande che... segno di integrazione occidentale. Ma perché non manifestano contro la violenza? Facessero una manifestazione contro la violenza. Dovrebbero farlo. E non lo fanno, non lo fanno mai. A Parigi, non c'è, in Italia Parigi, non c'è una manifestazione. Ma sei così facessero eccitato? Una manifestazione. Io perché no, non sono eccitato. Facessero una manifestazione in Italia contro la violenza. Tutti i musulmani, cosiddetti moderati, la facessero. Non contro libero, la facessero in Italia. Fermo, traffico. Dopo torniamo con Rondolino perché dobbiamo parlare di emergency, eh? Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. La Zanzara. Allora, con noi Fabrizio Rondolino che l'altro giorno ha scritto una cosa... per cui pende su di lui addirittura una fatua da parte di Emergency, una sorta di fatua di Emergency contro Rondolino. Però prima un giudizio su quello che ha detto la Mannoia, Fabrizio, cioè sul fatto che ha messo sullo stesso piano. Adesso però la Mannoia uno potrebbe dire sti cazzi, potrebbe dire chi se ne frega, sì, però... No, però i cantanti sono degli intellettuali anche loro, diciamo così. Ha messo sullo stesso piano, esatto, ha messo sullo stesso piano i paesi occidentali e l'ISIS in sostanza. Sì, ho visto. Beh, e poi è un po' la posizione anche di Gino Strada, no? Che è la cosa che mi ha mandato la Mosca. Cioè, tu dici, Gino Strada mette sullo stesso piano alla fine, sì, dicendo che la colpa è solo nostra e la guerra l'abbiamo portata noi. Abbiamo pagato il conto delle nostre guerre, no? Sì, questo è una posizione che dà una sostanziale legittimità al terrorismo. Non significa, ma noi non ha detto viva l'ISIS, no, almeno non credo, no? No, assolutamente Gino Strada. Però legittima il terrorismo, dici? Altro che se lo legittima. Ma poi guardate, la vecchia, vabbè, voi siete ragazzi, ma io che c'ho una certa età, negli anni 70 c'era quella roba né con lo Stato né con le BR, no? Per cui tanto lo dicevano le stesse persone, cioè i gruppettari, perché poi alla fine noi è una gruppettara, no? Detto amichevolmente. Né con lo Stato, né con le BR, perché poverini, sono compagni che sbagliano, sono cattivi, ammazzano, ma neanche con lo Stato, perché lo Stato è oppressivo ed è censorio, è militarizzato, è lo Stato imperialista e le multinazionali, diceva allora, no? Sì. Questa è una posizione demenziale, perché è una posizione che aiuta oggettivamente, aiutava allora le Brigate Rosse e oggi aiuta il fondamentalismo. Cioè, senza volerlo, Gino Strada e la Mannoia, cioè Emergency e la Mannoia, per quello che dicono naturalmente, mettono sullo stesso, aiutano il terrorismo. Insomma, aiuto al terrorismo, diciamo che tendono a rendere, come posso dire, no, perché non vorrei neanche adesso hai detto legittimano il terrorismo, però sì, cioè legittima il fatto che ci sia delle persone che reagiscono alle cattiverie dell'Occidente, di Parigi. Perché allora uno potrebbe dire innanzitutto nessuna forma di violenza mai, eccetera eccetera, dopodiché l'Occidente ha la sua parte di responsabilità. Invece loro dicono la guerra l'abbiamo portata noi. Questa è una vecchia storia, cioè si chiama terzo mondismo, anche più una parola a me lo dice. Il terzo mondismo è quella forma di odio per l'Occidente che un pezzo di sinistra purtroppo ha sempre coltivato. Per cui secondo te Gino Strada odia l'Occidente, secondo te? Un po' sì, dai. Insomma, diciamo che io l'ho chiamato un'organizzazione politica antioccidentale, diciamo che combatte combatte l'Occidente, il nostro modo di vivere, il nostro modo combatte di vivere. Lo stile di vita dell'Occidente, sì, sì. Mascherata da ospedale ambulante, è scritto, va isolata e boicottata. Adesso non ti pentire di quello che hai scritto, non è che tu, no, uno scrive una cosa e poi si pente perché c'ha paura. Cioè, no, ti prende la, ti parte la vena, te parte la vena, no, e poi la cerchi di tamponarla, perché non funziona così, no, almeno qua no. Ho scritto un post che prova ad argomentare questa cosa. No, io la confermo, salvo cioè, tu daresti un euro emergency? Tu daresti un euro emergency? Ma no, ma certo che no, io gli do a Medici Senza Frontiere, che sono esattamente la stessa cosa, però sì, non fanno questa politica. Ragione. Per me è questa la questione. Su perché, questa ho detto, perché ho detto mascherato da un'ospedale ambulante? Perché se tu fai l'ospedale, se tu fai l'ONG, tutte le ONG del mondo non parlano di politica, ce l'hanno i loro statuti, non è un caso, non sono tutti scemi o tutti vigliacchi. È vero. Lo fanno perché questo lavoro si fa così. Se invece tu utilizzi un lavoro meritorio, straordinario, che fanno migliaia di volontari di emergency, allora parlano contro la guerra, si potrebbe dire. Per si potrebbe... poi, no, attenzione, per poi costruirci sopra una posizione politica, e allora secondo me tu sei un imbroglione, cioè, non, perché utilizzi una neutralità per fare invece un discorso di parte. Che vuol dire contro la guerra? E quindi bisogna... Sì, l'esempio di Medici Senza Frontiere è perfetto, effettivamente. Ma pare adesso che... Sì, esatto, perché la secondo... stessa cosa, ma ha ragione. Questo sta fuori con il terzo mondista. E va boicottata, poi... che vuol dire? Scusami, Fabrizio, va boicottata. Che non bisogna dargli soldi, quello vuol dire. Che non bisogna... Sì, si basa sull'altro. E quelli che li danno? Ciascuno è libero. E quelli che li danno? I grandi sponsor, Fazio, eccetera, eccetera, che sono tutti presi per i fondelli? I grandi sponsor, ahimè, sono succubi di questa cultura che io definisco terzomondista, insomma non io, e che vede, che vorrebbe farci credere che l'Occidente ha un senso di colpo inestinguibile, per cui tutti i mali vengono da noi, invece tutti i beni vengono da noi, poi ogni tanto vengono anche dei mali. Perché ma chi finanzia Emergency secondo te? Ma guarda, non lo so, ho visto il bilancio... Moratti l'ha finanziato, scusa. No, vabbè, poi no, non è indicato, cioè il bilancio è molto... ce l'ho qui davanti, perché è Moratti molto dettagliato ha finanziato Emergency, A parte che noi diamo col 5 per 1000 volontariamente 10 milioni a Emergency. 10 il 5 mil- per 1000 vale per 10 milioni, esatto. Però poi, per esempio, ci sono quasi 6 milioni che vengono da estero, privati, persone giuridiche, 6 milioni. Chi potrebbero, potrebbero essere? Non lo so. È una domanda che faccio giro strada. Ci sono altri 5 milioni che arrivano da autorità pubbliche esteri. Non so se un governo rientra nella categoria autorità pubblica. Stai sospettando che arabi o altre persone finanzino, cioè ci devono dire chi sono i finanziatori, tu dici? Beh, io non voglio sospettare niente, però vorrei, cioè, mi piacerebbe che Emergency si spiegasse nel dettaglio questi, sono tanti, sono 38 milioni di entrate, ne togli 10. Dal 5 per 1000 rimangono 28 milioni, non so pochi. E 53 mila euro di tasse, ovviamente le tasse essendo una... Per carità, però un conto, cioè, non credo che questi 28 milioni li hanno raccolti soltanto facendo... vendendo le spillette, no? È vero che ti vogliono far cacciare... Vorrei una lista dei finanziatori. È vero che ti vogliono far cacciare dall'unità dove scrivi? ma no, la Cecilia Strada ha fatto un tweet, ma l'avete visto anche voi, che sì, diceva... Sì. Mi segnalava il mio direttore, mi diceva spero che tu faccia qualche cosa per fermarlo. No, tra l'altro qualcuno dice che stanno sfruttando anche l'italiana morta, cioè l'immagine dell'italiana morta dicendo che è stata una militante, eccetera, eccetera. Secondo te è vero o no? Beh, lo è stata una militante. Sì, no, però comunque pompando molto questa cosa. Sì, è stata una militante, però ma c'eravamo in Italia sul giornale, c'era oggi un pezzo che raccontava questa cosa. Cioè, anche effettivamente anche a me è sembrato un po' di cattivo gusto perché certo lei è stata lei parecchi anni fa ha fatto la volontaria di Emergency, ma ha fatto anche molte altre cose, non è che era lì in quanto volontaria, cioè stanno sfruttando la morte, diciamo, di questa ragazza, dillo chiaramente, secondo te se è così? No, sfruttando no, diciamo che strumentalizzano una notizia vera per farsi propaganda, per fundraising, per farsi propaganda, sì. Grazie Fabrizio, a presto, ciao. Grazie ciao. A voi, buona ciao sera. Ragazzi, giornale radio, poi torniamo, è 800 24 00 24, chiamate. Ma non potete iniziare alle 18 che c'è già gran voglia di zanzare. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Ragazzi, però non esagerate, con questo numero 393 71 71 701, uno adesso mi ha chiesto, Parenzo, tre secondi fa a Crucià, mi dai il numero di Valentina Nappi, amico mio, il numero di Valentina Nappi, dai. Segaioli, dai. Ma no, ma se, a parte che è legittimo e anzi meraviglioso essere segaiolo, cioè rivendico il diritto di esserlo, rivendico la beltà, se così si può dire, sì, la bellezza, uno lo può fare straordinaria casa, bellezza senza sponsorizzarlo, diciamo. Ma che c'entra adesso questo? Cioè, ogni volta devi rimarcare questa cosa. Ma sto uno dicendo... che chiama per avere un numero, un maiale, ma dai, un maiale, ma uno che vuole avere il numero di Valentina casa, no? Ma, sì. No, vuole avere il numero di Valentina Nappi. Ma appunto, perché si deve umiliare così? Che telefono alla radio per avere il numero? Ha mandato un messaggio: mi dai il numero di Valentina Nappi? Amico mio, non te lo do il numero di Valentina Nappi, perché altrimenti la signorina Nappi non vedrebbe di buon occhio il fatto che io do il suo numero. O forse sì, non lo so, dipende anche, insomma, da cosa hai da offrire in cambio. Cosa hai da offrire in cambio? Ho capito che con te bisogna parlare solo di figa, perché se parli di figa con te, allora si va tutto d'accordo. Quando c'è da fare un discorso serio è meglio parlare con Parenzo, perché ha dimostrato di avere più testa. Bene, bene, io sono molto orgoglioso di questa cosa qua. Jimmy dalla provincia di Monza, 800240024. Molti ci dicono: bella, ma noia, poi in realtà non ha tutti i torti. Bisogna vedere chi finanzia l'ISIS, e da dove vengono le armi, eccetera, eccetera. È questo che si dovrebbe chiedere il parente di una vittima. Mi ha scritto un sacco di gente dicendo una cosa. Ma immagino, perché c'è una parte cosiddetta sinistra. Ma non c'è solo la sinistra, è una realtà il fatto che l'ISIS abbia delle complicità occidentali, la Turchia, il professor Luttuak è convinto di questo, per esempio, va benissimo. Senti, poi ti dico una cosa, da domani cambiamo, io mi sono veramente rotto i coglioni dopo due giorni di parlare di questa vicenda. Ma è fondamentale, mi sono cambia veramente rotto vite. Il cazzo. Mi sono un po' rotto i coglioni e credo che si sia rotto i coglioni anche di pubblico. Cioè, da domani cambiamo, poi se capita parliamo anche di questo, perché sennò ci giriamo intorno. A me l'Islam mi sta proprio sui coglioni, questo vorrei dirti, cioè a me in generale l'Islam questo mi sta sui coglioni, le usanze dell'Islam mi stanno sui coglioni. Poi per carità, va benissimo, ci convivo, ma le usanze dell'Islam mi stanno un po' sui coglioni, il come modo di concepire la donna, il modo di trattare la donna, l'idea che hanno delle tutti donne, stereotipi, tante persone, tanti Islam, ma sì, certo. Vabbè, perché la moglie di Khalid Chaouki, che io peraltro conosco, ma è uno, ma per carità, ma non è ma uno, quello è un Islam all'acqua di rose, di del mio amico medico siriano, ma sono Islam all'acqua di rose, ma non è Islam, è ma un no, gioco quello, guarda, non è l'Islam. Guarda, ho appena dato agli amici della gabbia il numero del mio amico Abdallah Kabakebji, e vabbè, medico, dai il numero di Kabakebji, Siria, come medico, si chiama questo Kabakebji, si chiama Abdallah Kabakebji, non è difficile, è anche storpiare i nomi degli altri perché non si conoscono, perché nelle classi dei nostri figli vivono già bambini ed è normale, con cognomi che a te sembrano strani, ma assolutamente, no? Ma benissimo, ma e invece benissimo. I bambini nostri sono più abituati di noi, li sanno pronunciare anche meglio di noi, ma va senza benissimo sopra. Ma non c'è problema, il problema è che quello è un Islam così, cioè per modo ma di chi? Dire Abdallah Kabakebji, o medico, le donne nell'Islam sono siriano. Trattate di merda, questa è la ma realtà, ma dipende dai paesi, ma certo che in l'Islam. Italia no, perché sennò te carcerano, scusami, dai. Dipende in no, quali paesi, in moltissimi paesi islamici, in moltissimi paesi islamici dove esiste la sharia, non in Occidente, esattamente, non in Occidente. L'Islam che stava ad esempio a Sarajevo non era un Islam come quello dell'Arabia ma Saudita, certo, che peraltro ma fa però sempre Islam, l'Italia. Sempre Islam quello. No, hanno i paesi hanno declinato l'Islam con la sharia. Jimmy, provincia di Monza. Sì, ma certo, ma sempre l'Islam è, però, cioè, l'avranno preso da qualche cosa dell'Islam. È un politico, no? Che ha applicato l'Islam alla lettera, vabbè. Non facendo. Vabbè, sempre Islam è, se applica la lettera ad altre cose, non è che esce fuori quella roba lì. Ma infatti, Jimmy, parliamo dell'Arabia Saudita. Signor parliamo Jimmy, di questi mi paesi fai sentire, qui, signor Jimmy? Non solo l'Arabia Saudita, signor Jimmy, anche nel Marocco di Salvini, Jimmy, vai. Buonasera, innanzitutto sono Cruciani, sono Parenzo. Vai, dimmi, veloce, vai, Jimmy. Ma niente, velocissimo. Io quello che sto dicendo anche a tutte le persone con cui ho parlato in questi giorni di questi fatti che succede. Secondo me tutta questa vicenda bisogna mettere un po' il freno a mano e rallentare un po', nel senso che noi stiamo leggendo, stiamo guardando la televisione, stiamo sentendo la radio, sentiamo voi, tutti dicono a loro. Però noi ci dobbiamo ricordare di quello che è successo prima, perché altrimenti continuiamo sempre a fare, come partire sempre da zero, no? Per cui dopo l'11 settembre qualcuno ci ha Però amico mio, che cosa vuoi dire? Andiamo al sodo, su, forza caro Jimmy, dai, forza, il cosa succo, vuoi dire? Il succo, è, perché altrimenti stai dicendo delle cose fumose, siamo, incomprensibili, siamo, dai. Siamo sicuri che tutto quello che vediamo in televisione sia esattamente quello che succede. Ah, cioè, non il fatto, grande non domanda, il fatto, alle 19.24, Jerry dalla provincia di Teramo, Jimmy, eliminato. Jerry, provincia di Teramo, dai, forza. E che cavolo, dai. Vai Jerry. Buonasera, buonasera. Dimmi, vai, vai. Come va? Vai, dimmi. Passami Parenzo, papà, mi devi passare sto pezzo. Papà, io non sono tuo padre, cioè, Io parlo tutti, papà, sono un vecchio e tu sei il mio figliolo, senti. Ma non ma sono tuo figlio, manco per niente, cerca. Amico mio, non sono parenti tuo figlio. Parenti strani, Jimmy. Non sono tuo figlio, però. Ah, io voglio parlare con Parenzo. Eccoci, eccoci qua. Dimmi, lei è una brava persona. C'è uno che mi ha mandato una, dimmi, caro, un dimmi. Messaggio con la foto di Andrea Di Pre, una cosa incredibile, un numero anche. Con la foto del signor Di Pre. Vabbè, Jerry, dimmi. Io con un'altra persona, pronto Jerry, pronto. Ma Jerry, però parla, amico mio, dai. Non mi fai parlare, pronto. Dimmi, vai. Allora, questo signore che difende gli zingari, tutti i non difende di merda, di merda. Pronto? Ma perché dici pezzi di merda così? Pezzo di merda Parenzo, pezzi di merda no, di Zingari. No, Parenzo è un comunista di merda. Vabbè, è un suo linguaggio. Pure Frocio. Sì, è pure Frocio. È il suo livello merda. Culturale, non è che si vabbè, può cambiare. Jerry, adesso però io non è che tutte le sere lo ascolto questo pezzo di merda. Vabbè, ma non è che si può. Non però, si Jerry, può cambiare Jerry. La testa. Allora questo. In Italia ci possono stare, io ho tanti amici arabi, bravi. Bravi. Quelli possono rimanere, ma non quelli che dice lui. Quelli che dice lui. Mi ma io non so chi dice cosa, cioè cosa dice Parenzo, che non è che in Italia ci può rimanere solo chi Parenzo rispetta le leggi e tutto. Difende tutta la merda del mondo, è un pezzo guardi, di merda. Il primo che difendo è merda. Anche lei che si che è questa roba qua, purtroppo. Il primo che difendo è lei. Scusi, lei ha detto, tele, lei ha detto perché gli ha sei pezzi di merda. Le persone che non sono degne di stare in Italia. Tra lei che lei, cosa fare? Lei è il primo. A tradimento. Lei gli italiani non gli danno un cazzo. Lei aspetta, è il primo. Jerry, io tutti senza lavoro in mezzo tutti, alla strada, tutti. Non hanno né case, quello va bene, d'accordo. Nei soldi, non tu hanno sei, un cazzo. Tu sei in mezzo alla strada? Hai capito no? Tu... E questi signori mangiano e bevono le spese ma di chi? Questi pezzi di merda, ma quali i comunisti. Siete delle merde. Ma è impazzito giusto, questo. Giusto, hai ragione. Però Jerry, sono impazzito, ragione, io non sono impazzito. Ma noi beh, siamo, un po', noi siamo io qui. Dico la verità, però, io vivo Jerry, in mezzo calmati. A questa gente. Jerry, no, devi calmarti lei è caduto in una botte di vino, lei, altro che è caduto in una otre di il vino glielo do in testa io sì, Jerry, è caduto per sbaglio aspetta, in una botte questo signore deve imparare l'educazione. Beh, oddio, non è adesso. Ineducato adesso detto, Jerry detto da lei diceva. Caro Lord scusa Jerry però abbi Lord pazienza. Tu dai Jerry. Dai dell'educato a Parenzo quando sì. Nei primi 5 minuti Parenzo, aspetta Parenzo, fermo lì sai dove... oh. Io c'ho la campagna Parenzo deve zappare vabbè d'accordo zapperà pure deve zappare zapperà anch'io zappo hai ogni tanto però Jerry a fare lo stronzo per prendere va bene, i soldi ecco. Hai capito? Vabbè prende i soldi ma a casa sua va tutto bene? Aspetta ma se c'è un clima positivo va tutto bene. Io sono ricco. Mi compro te e tutti quelli che stanno lì dentro. Va bene, no. Però allora... tu sei un pezzo di ma merda. Dai, e poi Lord. Ma lei poi... ha parenti, sì. Scusa, ineducato chi sarebbe poi? Ma no, vabbè, ma questo è. Lei è ineducato ma come tutti. Lei, capito? Lei ha parenti viventi, immagino. Vabbè, Jerry, ma però. Non si imbarazzano i suoi parenti a sentirla in questo stato, no? Io sono in uno stato sì. Dove sono. No, tre mesi che vi chiamo. No, in uno stato no, in uno mentale. Stato mentale. Non riesco mai a parlare. Beh, c'è un questo motivo ci sarà. Perché è riuscito a fare il numero solo oggi. Dagli italiani, dal Sole 24 noi. Ore. No, no, lei il non paga un cazzo purtroppo, dal Sole 24 ore. Non lo pagano gli lei altri, purtroppo non paga. La televisione e la radio la pagano gli italiani. No, sì, la paga il Sole 24 ore. Quelli che producono. Non è esattamente così, caro amico mio, però scusami, Jerry, no, la paga il Sole 24 ore, caro lei purtroppo Jerry, non dà una lira. No, però Jerry, scusate, adesso mettiamo un attimo in ordine le cose. Tu sei intervenuto sì. E comincia a dire Parenzo pezzo. No, sì. Ascoltami appunto. E comincia a dire Parenzo pezzo di merda. Per carità, noi non ci offendiamo quando uno dice le parolacce. Perché? Ogni tanto aspetta, fermo lì, devi stare ad ascoltare. Niente, gli è partita la vena. Tutte le sere. Va bene, d'accordo. Va bene, d'accordo, però hai ripetuto pezzo di merda 4-5 sì. Volte. Ripeto, noi non siamo particolarmente sensibili nei confronti di questa cosa, però subito dopo hai aggiunto un altro elemento. momento hai detto Parenzo è ineducato. Ecco, vorrei farti semplicemente presente che quando uno esordisce dicendo un pezzo di merda, uno stronzo, un coglione, eccetera, e poi subito dopo dice lei è ineducato in trasmissione, beh, qualche cosa, no, una piccola contraddizione c'è, caro amico Jerry dalla provincia di Teramo. Lei si ricorda che tutte le sere Parenzo dice, ma, no, ma che c'entra quello? Può essere contro tutti, contro questo, contro quell'altro. Ma gli italiani chi li difende? Gli italiani che stanno ma noi siamo qui per difendere anche te. Noi siamo qui per difendere anche le cazzate che dici. Jerry, noi siamo qui anche. Sì, vabbè, no, un imprenditore. Può essere pure. Sentila, ma quale Sono morto. Perché sei morto? Per tutte queste persone che, come Parenzo, hai capito? No. Ma tu sei morto, che difendono tutti gli altri, gli italiani stanno senza una casa, senza una lira, in mezzo a una strada, è un poveretto. E gli stranieri hanno 70 euro al giorno, perché non sono i 70 vabbè, euro più però, l'albergo, il ristorante, le medicine, il cazzo, non pagano un cazzo, Jerry, né luce né telefono, niente, pagano un cazzo, gli è partita la e gli italiani, gli italiani con cazzo devono fare. Ciao, ciao. Parenzo è un comunista di merda, eppure frocio, è un frocione di merda. Breaking news. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi che lo stadio di Hannover, dove è prevista la partita di calcio Germania-Olanda di questa sera, è stato evacuato e la partita è stata annullata. Al momento non abbiamo altre informazioni, adesso ci sono le notizie che arrivano dalle borse, saremo più chiari nelle prossime edizioni di GR24. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Ma come si fa nel 2016 a credere a dei libri così vecchi come quelli del Corano, della Bibbia? Ma svegliatevi fuori, ragazzi, ma com'è possibile? Aboliamo ste cazzo di religioni, dai. Enzo, non te ne andare, vabbè che adesso fai il giro di tutti gli studi televisivi, sei alla 7, ti invitano ovunque, da Formigli, sei un giornalista quotato, ma tu sei nato alla Zanzara, tu ci hai deliziato con le tue battaglie con Saia, con Scillipoti, con Razzi, momenti fantastici, adesso sei un po' più spocchioso, non battagli più, sei morto, Parenzo, noi ti rivogliamo come un tempo, la vera Zanzara sei tu, ti rivogliamo gasato e battagliera come un tempo. Allora ragazzi, questi sono alcuni dei messaggi che sono arrivati, 393 71 71 701, noi leggiamo tutto, qui si legge tutto uno per uno, un lavoro drammatico. Allora, ho deciso di fare, di mettergli una bacheca a casa, caro David, del titolo di Libero, la prima pagina di Libero. Una bacheca a casa, bellissima bacheca già fatta. In gabinetto potevi metterlo. Ma non è escluso che lo tenga in gabinetto, in così gabinetto. Uno lo vede più spesso se lo tiene in gabinetto di fronte. Beh, almeno certo. 3 volte al giorno, certo. Beh, no, ma io non sto quasi mai a casa, però quando sto a casa, in gabinetto è uno di quei posti dove potrei metterlo. Sì, ma mica perché consideri il gabinetto una cosa schifosa? In gabinetto si fanno delle cose meravigliose. È un luogo fondamentale. E allora, appunto, se uno lo mette là, significa che lo esalta in qualche modo. Nei luoghi più frequentati. E sono in procinto di far stampare delle magliette, credo. Beh. Bellissimo, delle magliette con la prima pagina di Libero da dare a chi? Ma da dare a pochi intimi, una ventina di magliette doc. Beh, io fatte non bene. Sono d'accordo, tu no, non la prenderai, chi se ne frega. Però io metto Libero, il titolo, Bastardi Islamici, o che, com'era? Bastardi Islamici, Islamici Bastardi, non mi ricordo. No, sì, è uguale, è lo stesso. No, beh, forse potrebbe essere diverso. Però comunque con la prima pagina di Libero l'altro giorno, una ventina di magliette doc farò fare. Pietro da Bari, vai, 800 24 00 24. Oh, aspetta, prima voglio leggervi una cosa che è stata pubblicata su un sito di cristiano, non so che cosa, ed è stata pubblicata da una signora che si chiama, una signora, una giovane, una vecchia, non so, Rita Sberna, credo non sia la figlia dell'onorevole Sberna, da noi conosciuto di Sciolta Civica. Senti qua che cosa eccezionale. Gli Eagles of Death Metal, che sono un gruppo che suonava nel, a Parigi, no? Quando hanno fatto l'attentato, sì. Sono un gruppo rock statunitense blasfemo. Stavano suonando il loro brano Kiss the Devil, che tradotto significa naturalmente bacia il diavolo. Quando i terroristi hanno iniziato a sparare in sala, il fragore dei colpi dopo pochi secondi ha sovrastato la musica e la band è riuscita a salvarsi attraverso un'uscita sul retro del locale. Coincidenza, scrive questa signora. Per noi cristiani non esiste la coincidenza, ma semplicemente la conseguenza della scelta che l'uomo fa nel suo libero arbitrio. Seminare il bene raccogliendo i frutti, seminare il male raccogliendo morti e stragi. Cosa vuole dire questa signorina Sberna? E proprio dopo quell'inno al diavolo si è scatenato l'inferno. Una strage e tante morti, terrore e paura. Chi è il mandante di questo attentato? L'ISIS? No! È qui che ci sbagliamo. L'ISIS sono soltanto i soldatini del maligno. Il mandante è proprio Satana. Prendiamo atto che Satana è a catene libere e da poco tempo. Ma vaffanculo, va. Ma c'è gente che crede a queste robe qui. C'è gente che crede che non sia una coincidenza la presenza di quel gruppo lì, di quel gruppo di musici, musicisti o musici, è la stessa cosa, e le esplosioni, insomma, gli attentati, i morti, eccetera, eccetera. Cioè, loro volevano baciare il diavolo e il diavolo, no, ha presentato il conto. Follia, sì. Ah, c'è anche Giulietto Chiesa, per carità, non voglio mettere Giulietto Chiesa alla stessa stregua di questi signori, però sentiamo il signor Chiesa. Noi li abbiamo creati e addestrati, l'ISIS. Era una conseguenza inesorabile di quello che noi occidentali abbiamo fatto fino ad ora. Sono venuti a casa nostra perché noi li abbiamo creati, li abbiamo organizzati, li abbiamo costruiti, addestrati, abbiamo spiegato loro cosa dovevano fare e adesso loro lo fanno in un altro posto dove noi non avevamo previsto che lo facessero. Tutto lì. Non sono gli islamici che vogliono ridurre la nostra libertà. Quelli che organizzano tutto questo è perché vogliono ridurre le nostre libertà, questa è la spiegazione. Quindi non sono soltanto gli islamici, anzi non sono loro, c'è qualcun altro che ha già pensato da tempo che le nostre libertà, la nostra democrazia fanno perdere tempo, che non servono. Vabbè ragazzi, andiamo a Bari. Pietro, vai. Non c'è Dario Treviso, vai. Ciao, Dario. Ciao, dimmi, ciao, dimmi. Ciao parecchio. Ciao. Ascolta, volevo dirti che la Mannoia ha detto cose correttamente giuste, in quanto tutto quello che noi o sono corrette o sono giuste, oppure corrette e giuste è la stessa cosa, interpreta te, l'importante è che sia, cioè la Mannoia ha ragione quando mette sullo stesso piano i terroristi e i paesi occidentali. Ma certamente, scusa un attimo, gli americani si sono inventati la guerra in Iraq inventandosi che c'erano delle armi di distruzione di massa, sono andati negli commissari dell'ispettore dell'ONU e non hanno trovato nulla. Intanto abbiamo tirato giù Saddam. Chiamiamo le missioni di pace guerre. Cioè tu dici tutte le guerre che noi abbiamo, ma tra virgolette, attimo, provocato in Medio Oriente, alla fine l'ISIS è un prodotto di questa roba qua, tu dici, che è la stessa, la stessa idea di Gino Strada, della Mannoia, eccetera. In Afghanistan, e per lavarci la coscienza la chiamiamo missioni di pace, perché sulla Costituzione ce l'abbiamo per Costituzione che la guerra è contro, l'Italia è contro la guerra. Vabbè, allora? Ma però la Mannoia ha ragione, la Mannoia ha ragione. Sì, la chiamiamo missione di pace, non vediamo nessuna immagine, ma tu pensi che i nostri soldati stiano là a piantare fiori e a dare caramelle ai bambini? Ma no, in qualche caso combattono pure, allora? Io voglio sapere quanti morti ha fatto l'esercito italiano in Afghanistan. O pensi che hanno costruito solo asili? No, ma io quando voglio capire una cosa, una secondo te, siamo una massa di ipocriti, tu Parento, io lo sono stato, ma ho cambiato. Cioè, la colpa è nostra, la colpa di quello che succede è nostro. Facebook, no? Subiti gli attentati, tutti con la lacrima, con l'occhio francese, con la lacrima. È stato abbattuto un jet, un Boeing russo sopra lì, Sinai. Chi ha messo la bandiera russa con la lacrima? Massa di ipocriti. Quando date un voto, dovete votare dei politici che fanno una politica interna e internazionale. Ma che vuoi dire con questo? Quando mio figlio mi ha chiesto come faccio a votare, cosa devo guardare, tu devi preoccuparti se sei contro, per esempio, l'unione gay, se sei contro la droga o la liberalizzazione della droga, se sei contro la guerra o a favore della guerra. La politica è interna e esterna. Quando io voto, questo è chiaro, allora voto qualcuno che fa casertino agli stati imperialisti, agli americani. Gli che stati imperialisti? Sì, sì. Gli americani da quando sono nati sono sempre stati in guerra, è 150 allora, anni. Tra l'altro, Dario, tu vai d'accordo con un amico mio che non so se aspetta, Dario. Vabbè, ma aspetta, stai tranquillo, con un questo mio amico. Pazzo, eh. Ma non è pazzo, non è affatto dice pazzo. Delle cose vabbè, che dice delle cose non secondo te non condivisibili, pensano, ma non è pazzo. Ma sono... perché gli dai del pazzo? No, no, ma pazzo è un modo di dire, ma insomma, non è pazzo, non vuol dire non come gli altri che chiamano. E dice una cosa che non sta nel cielo né terra, secondo me. Un mio amico che non è affatto è molto filo americano. È uno che ama molto l'America, non so se posso dire nome e cognome in questo caso, però mi scrive: che caso, dopo gli attentati salgono alla grande le azioni delle aziende che si occupano di difesa, armi, certo, controllo, eccetera, eccetera. Però è sempre così. No, lui vuole dire naturalmente che queste cose sono create ad arte per rafforzare, per far guadagnare soprattutto. Che è una vecchia cosa belli. Che si dice sempre anche negli Stati Uniti. Marco peraltro. Da Prato, vai. Ciao, buonasera. Vai, dimmi, buonasera. Sì, ma in ogni caso uno può pensare tutto quello che vuole, ma mettere sullo stesso piano, come fa Fiorella Mannoia, come fanno molti, gli stati occidentali al terrorismo è una cosa ridicola. Ma non esiste al mondo. Ridicola. Marco, dimmi. Sì, ciao, buonasera a tutte e due. Sì, abbiamo capito, dai. Senti, io sono 4 giorni che ho l'insulto del vomito e ancora di più dopo aver ascoltato la Mannoia e quell'idiota colossale che risponda in nome di Giulietto Chiesa. Allora vi dico una cosa soltanto. Voi fate conto qual è la religione al mondo dove c'è scritto che chi la pensa differente è un infedele. Infedele significa, quella parola lì giustifica tutto, perché loro non accettano che un altro possa avere una fede diversa dalla certo, loro. Certo, hai ragione. Ed è l'unica religione al mondo che contempla la parola infedele. Mi sono rotto i coglioni di sentire sta gente in televisione e alla radio che sta qui a sentenziare, a dire l'Islam è qui, l'Islam è là. No, loro possono fare quello che gli pare, perché se credono in quella religione loro hanno come obiettivo che l'infedele non deve esistere. Tant'è che quando hanno intervistato... Parenzo, questo è vero però, cioè è vero che nell'Islam c'è... Dimmi. Aspetta un attimo, quei signori che sono stati intervistati ultimamente in televisione dove si sono visti in volto, sì, non era sì. Molto coperto, quelli lì come mai non sono già su un aereo e si tolgono dai coglioni di questo paese? Quelli che hanno detto che a Charlie Hebdo hanno fatto bene verranno segnalati bene, e espulsi come è successo segnalati e espulsi la Mannoia, la cara Mannoia rossa di capelli e rossa dentro non è mai andata nei paesi quando c'era il comunismo vero, lei nei paesi comunisti non ci hanno messo piede. Ma non io ci sono stato, lo so che vuol dire, hai capito? Io ci sono stato e lo so che cosa vuol dire, e questi stronzi e con la bocca di terzo mondismo e questa sinistra è becera e idiota, non hanno mai fatto i comunisti nei paesi comunisti, sono stati a farlo in Occidente sotto l'ombrello della NATO con la protezione degli Stati Uniti, stronzi 3 volte. Ma questa è una capito? Cosa e questa capito? È una cosa scleroti, lei prende perché quello ma che io ha parlato non la... prima ma io non la penso prima. Come la Mannoia, io la penso come il presidente Hollande che ha detto due cose, uno bombardare l'Islam. Ma senti un attimo penso che quello che lui ha detto è giustissimo. Tu hai sentito il discorso di Hollande, tre cose fondamentali: bombardare l'Isis, rivedere alcune questioni sulla parola infedele, perché non cancellano? Siccome sono tolleranti dovrebbero dire che chi la pensa differente non è un infedele, crede in un'altra cosa, punto e basta. Ciao Marco, grazie, ciao. Non fa il discorso teologico con questo qua, ma pensa a te. Attento al DDT, sai. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Un musulmano può pregare in piazza San Pietro con il suo tappeto. Provate a farvi un segno della croce a Medina, minimo vi spara qualcuno. Questa è la differenza tra islamici e cristiani. Ma non è vero. Mi scrive un ascoltatore. È vero, come non è vero? Non puoi negare anche questo. Devi questo spiegare, è vero. Ma è vero o non è vero? Devi spiegare a questa persona. Se dimmi, vuoi spiegarlo, spiegalo, ma qui non si spiega. Spiegalo. È che spiegalo, il paese vai. Che ospita Medina e la Mecca vai, professore, sono paesi non democratici. No, ma è vero o non è vero? Allora, in quei paesi, non sì. per via della religione, per via soprattutto no, del l'Islam regime è meraviglioso, l'Islam teocratico, è una religione meravigliosa. Si chiama regime teocratico. Ma perché non dici che è meraviglioso l'Islam? Si chiama non lo dico perché io sono perché bisogna bombardare ISIS, ad esempio. Ma cioè, che io c'entra bombardare l'ISIS l'Islam con l'Islam radicale? Alla Mecca e alla Medina, che sono luoghi sacri dell'Islam. Tu stai dicendo che come un'altra dell'Islam. L'Islam è una religione come un'altra. Come una. Tu stai dicendo sto da dicendo qualche che giorno esiste un Islam radicale che io conosco bene sappiamo, perché dai, conosco a Mecca. Allora, esiste un Islam radicale. È un, Islam moderato. Hamas vabbè. È Islam radicale. Sì, ma Al-Qaeda era vabbè. Islam politico radicale. Oh, abbiamo qui un signore. ISIS è Islam politico radicale. Bene, abbiamo qui un signore. I signori che si... islamici sì. che vivono, ad esempio, in Giordania sì. o che vivevano in ex Jugoslavia, a Sarajevo, sì. dove c'erano moschee, chiese e sinagoghe. Sì. Non era un Islam che tagliava le gole, sì. quello che c'era anche in Europa a Sarajevo, sì. ad esempio. Allora, questo abbiamo è... con noi il coordinatore dell'associazione islamica Milano e Monza, si chiama Reas Sied. Allora, sa che ha detto che è un bastardo lei, io sia Cruciani detto, che è libero. Non certo, ho detto affatto questo. Lei è un islamico, quindi è un bastardo, lo sappia per qualcuno. Sied? Sì, a me lo sta dicendo. Buonasera, bene, buonasera. Buonasera. No, non ho mai detto. Quelle no. questa posizione. Io questo non ho mai detto. Una, ovviamente, non ho mai detto. Legale, ci metto poco a far partire la querela. Sì, avrebbe ragione. Quarelli succederà anche con chi ha detto questa cosa. Allora, avrebbe ragione, signor. Io, ovviamente, al contrario di quello che dice questo signore qui, non ho mai detto che non esiste l'Islam moderato. Ho detto che l'Islam moderato è molto minoritario rispetto all'altro, e che sempre di Islam si tratta, e che l'Islam ha in sé delle storture. Questo lo penso, ma chi se ne frega. Ma di quello... in realtà anche questo moderato io non lo capisco molto, cioè? Io dico Islam, dico che sono musulmano, punto. Moderato, tutto l'altro sono, come dire, contorni che non sono necessari, cioè? Io sono musulmano, punto, integro, punto. Non integralista, cioè, ma integro vorrei proprio esserlo. Musulmano, che vuol dire musulmano integro, scusi signor Sied? Musulmano e poi dico aspiro e integro. Cioè, perché segue la dottrina. Perché secondo lei non ci sono gli estremisti? No, gli estremisti ci sono, ma come ci sono da tutte le parti. Quello che a me non piace è dare questa definizione di moderato e creare questa categoria quasi impercettibile che contrasta con le altre. Io preferisco più magari un musulmano dialogante, così. Vabbè, adesso al di là e poi bisogna chiedersi con chi dialoga, no? Sì, perché al di là delle definizioni, stare nell'angolino da solo. Certo. Il dialogante bisogna vedere con chi deve dialogare. Però scusi, torniamo a Libero. Lei ha intenzione di querelare Libero? Certo, lo faremo anche a nome del coordinamento delle associazioni islamiche per vilipendio alla religione. Legge articolo 403 del codice penale, legge italiana non rispettato da una persona che certo. ho sentito varie volte dire le leggi. Allora Parenzo, perché non denuncia anche tu Libero? Parenzo, scusa, io non sono islamico. Ma perché c'entra? Puoi anche un libero cittadino può denunciare una non persona, lo faccio, non c'è bisogno. Però capisco chi si sente offeso, ma non allora, sono islamico e capisco chi si sente offeso. Approvi l'iniziativa di questo signore. Io non devo approvare niente, non sono nessuno. Ho detto giusto prima, hai detto giusto fin dal primo mentre parlava, hai detto giusto, lo era bene, questo abbiamo capito, aveva detto giusto, offensivo, va bene, è un prima titolo dici offensivo giusto, ma chi lo ha condiviso anche ha offeso un milione e mezzo di persone che vivono in Italia, come lo interpreto io, ma non c'è da interpretare, ma questo l'hai già detto mille volte, Libero mi avesse no vabbè. Perché se Libero avesse vabbè, semplicemente parla scritto tu. Bastardi ti spiego la differenza, visto che parliamo di parole, l'hai già detta ieri, se avesse semplicemente scritto Bastardi con la foto degli attentatori kamikaze, ma sono islamici di quelli. Parigi sono islamici, quello non sarebbe, non sono fatto. Islamici, quel titolo chiaramente equivoco è voluto proprio vabbè. Per giocare su questa non situazione mi sembra molto chiaro sì, no ma chiarissimo sì. peraltro, infatti che si vuole giocare su questa sì, cosa sì. È talmente chiaro che, vabbè insomma, ok allora quindi fa bene se si sente offeso fa bene, ha già detto 40 volte questa cosa tra ieri e oggi. Ci fosse stato ebrei, cristiani, buddisti o chiunque altro, esattamente. Allora aspetta, però voglio andare se dopo fatti. L'uccisione di Rabin, mi fai condurre un attimo? No, voglio... perché se dopo l'uccisione di Rabin qualcuno avesse cosa, detto dai, ebrei bastardi, sì. dopo l'uccisione di Rabin da sì, parte vabbè. Di un estremista israeliano, vabbè. Io mi sarei sentito offeso. Benissimo, perché non se sono. Penso, ma è questo il ragionamento. Io non ti sto dicendo niente, mi sto facendo. Appunto, andate a fare la denuncia insieme, che così andate a braccetto. Di che cosa? Allora, andate a fare questa denuncia insieme. Ma non ironizzare, perché se andate a fare la denuncia, andate a denuncia. Molto violenta. Ma quale grave? Ma quando mai? Molto violenta. Chi offende è un violento. è il titolo di un giornale. Violento, libero violento, benissimo, libero anche violento. Tu, anche chi l'ha condiviso, le altre migliaia di persone che hanno violento. Vi ho anche detto il reato che ha commesso. Addirittura oltre, oh, Parenzo è oltre il coordinatore delle associazioni islamiche. Ha detto oltre, ha detto. Oltre. Ci sono dei titoli che sono violenti. E questo è un titolo violento, hai detto, titolo violento. Ma poi allora, mandarlo alle agenzie, tranquillamente. Sì, ma chi se ne frega delle agenzie, Sied? Scusa un attimo, Sied. Allora, no, ti do del tu, perché io ti do del tu. Tu, dammi del tu, anche tu naturalmente. Allora, tu stai dicendo querelleremo libero per vilipendio alla religione, giusto? Certo. Vilipendio alla religione, ma vuoi fare anche qualche manifestazione sotto libero, qualche piccolo sit-in? No, sotto libero no, guarda che io ti ho detto anche il reato per cui lo querelleremo. Noi non vogliamo dare tutta questa attenzione a libero, vogliamo però che sia rispettata la legge italiana. Come ma non hanno violato nessuna lei, ma di quale leggi parli? Di quale leggi parli? Articolo 403 del codice ma lui non penale, gli interessa questo. Il codice, non interessa niente. Ma sì. È inutile che gli dici. Con tutti i problemi, cioè con tutti i problemi che ci sono, denunciare libero. Ma voi siete, ma voi siete fuori di testa. Tutti i problemi che ci sono, non ha senso aggiungerne altri. E libero ha fatto proprio questo. Allora no, ma tu sei molto più, sei molto chiaro su questa roba qui, sei coerente e si senti offeso. Io non ti sto dicendo nulla, per me è una follia totale. Beh, vuoi portare in tribunale Belpietro e libero per quel titolo, fermi tutti. Brucida. Breaking news. Interrompiamo di nuovo le trasmissioni per ricordarvi, come abbiamo annunciato poco fa, che lo stadio di Hannover è stato evacuato, le persone stanno uscendo, le persone sono state avvisate con l'altoparlante, la partita prevista Germania-Olanda è stata sospesa, secondo le ultime informazioni è stato individuato un oggetto sospetto, non abbiamo altre informazioni, e anche persone sospette sono state individuate davanti allo stadio. Tutti i treni e i mezzi di trasporto da e per lo stadio sono stati bloccati e, come abbiamo detto, l'altoparlante ha avvisato le persone di uscire con calma dallo stadio. Queste sono le informazioni che abbiamo al momento, maggiori informazioni nel corso della serata su Radio 24. La Zanzara. Ragazzi, sembrate una vecchia coppia di ex innamorati che litiga tutto il tempo. Allora ragazzi, abbiamo il coordinatore delle associazioni islamiche a Milano e Monza, Reas Sied, il quale è molto offeso da quello che ha fatto libero, vuole querelare il giornale di Maurizio Belpietro, portarlo in tribunale per vilipendio alla religione. Chi vuole dare i soldi di un'eventuale vittoria in tribunale, signor Sied? Alle associazioni islamiche. Alle associazioni islamiche. Sì, quali associazioni islamiche? Ce ne sono varie, noi in realtà facciamo tante attività, sì, per loro. Io mi occupo più della parte legale. Hanno un problema vero e proprio, quello sui luoghi di culto, che vabbè, è un problema che prende. Però scusi, signor Sied, lei ha sentito prima la notizia che abbiamo dato noi in Breaking News, no? Cioè, è una notizia preoccupante. Non è che è preoccupante, che è stata creata, è stata creata questa situazione qua in Europa, di terrore, di paura, è stata creata da persone che hanno lo suo stesso credo. Cioè, lei lo sa questo, sì o no? O pensa che non siano islamici? Io questo non lo credo. Cioè, non sono islamici quelli là, non sono islamici. No, quelli possono assolutamente dichiararsi islamici, però no. Io non li reputo musulmani. Non li reputo musulmani. Magari loro non reputano musulmano lei, cioè, appunto. Facile. Ma può darsi, io lo so, però cioè, non le fa un po' impressione sia contro la mia fede, sia contro i valori in cui credo, sia contro il diritto alla vita, sia contro i valori in cui io sono cresciuto. Quindi, cioè, ma non le fa un po' impressione che prendano dal Corano dei versetti come hanno fatto, eccetera, gli stessi versetti che lei magari legge o che lei ha letto, che lei predica, non so se fa non le fa un po' impressione? Se io leggo quei versetti e non sento bisogno di uccidere nessuno e quelli lo fanno, secondo me non Beh, oddio, non è colpa dei versetti, può essere colpa anche dell'Islam, o no? Cioè, può essere anche colpa dell'Islam, come religione, no? Quello che sto dicendo. Cioè, l'Islam non ha nessuna colpa, non ha nessuna colpa. La religione è uno strumento, nel peggiore dei casi vogliamo dire un'arma, è un coltello. Allora, se quel coltello lo usi in cucina per tagliare le verdure è una roba, se vai a ammazzare con quel coltello è un'altra roba. Ho capito, però chissà perché la colpa la darei sempre all'uomo, non per carità, assolutamente. Nessuno porta in tribunale l'Islam in quanto tale, ma lei conosce altre religioni? invece in tante casi sedi, sul banco degli imputati è proprio l'Islam, ed io lo ritengo sia un atteggiamento sbagliato. Ah no, qual è un'altra religione nel mondo dove si ammazzano le persone, a parte casi limitati? Guardi, oggi nel 2015, nel 2015 sta succedendo in Birmania con i musulmani, in India gli indù, è successo un paio di settimane fa, hanno ucciso due musulmani perché avevano mangiato la carne di vacca che per loro è sacra. Vabbè, ma a parte questi casi, ho capito, ma su grande scala, grandi atti di terrorismo, chi è che li fa? Chi è che li fa? Me lo dica lei che è un... Ma io ho sentito tanti che in questi giorni qua in Italia, sento tanti che dicono per difendere i nostri valori dobbiamo bombardare la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan. Lei non bombarderebbe, non bombarderebbe adesso l'ISIS? Io non bombarderei mai nessuno, proprio perché è sbagliato bombardare l'ISIS adesso. No, io non bombarderei nessuno. È quello che sto dicendo, cioè dopo quello che è successo, abbiamo già fatto in Iraq un bel po' di tempo fa, abbiamo fatto 4 milioni di morti in quella zona del mondo e non è che abbiamo risolto le cose, le abbiamo... Sì, ma l'ISIS è un pericolo, è un pericolo anche per i cosiddetti musulmani, non bisogna bombardare l'ISIS, non bisogna distruggere l'ISIS. Bisogna distruggere l'ISIS, assolutamente. E come la distruggiamo, scusi? E come la distruggiamo? Con la cultura, con i mediatori culturali? Con la cultura, con la cultura. Con la cultura, ma che cultura? Mediatore, coordinatore, è su però, signor Siena. La cultura. Ma quale cultura? Ho capito, ma lei dice bisogna distruggere l'ISIS. La cultura dei diritti, bisogna, della fede. Ma bisogna distruggere l'ISIS con la cultura. La cultura, e certamente, se no l'ISIS, allora, facciamo così, non diamo più le armi all'ISIS, la uccidiamo. Vabbè, ma quello è un altro discorso, per carità. In Siria e in Iraq non le producono le armi, chi le fa? Chi dà le armi? Ecco, chi dà le armi? L'ho trovata. Non diamo più armi all'ISIS, l'abbiamo già distrutto. Basta. Benissimo, cultura a parte. Che? Non diamo più armi. Ecco, ma benissimo, questo, ma chi è che dà le armi secondo lei? Cioè, lei sta dicendo che alla fine è una nostra creazione l'ISIS. Cioè, l'Occidente ha creato. No, a me non interessa chi l'ha creato, chi non l'ha creato, complottismo, non complottismo. Oggi vogliamo far fuori l'ISIS. Boom, blocchiamo che arrivino le armi da quel punto. Vabbè, ma le armi non è solo le armi, le armi se le procurano da una parte, se le procurano da un'altra parte, sulla cultura il problema, la mentalità, e anche l'Islam, secondo me, anche l'Islam, su. No, ma lei è nato in Italia, no? L'Islam assolutamente no, lei è nato in Italia. Lui è italiano. No. Lui è nato in Italia, la sua famiglia no, invece no. Io non sono nato in Italia, sono nato in Pakistan. Sono arrivato in Italia all'età di 7-8 anni. È pakistanese, come è pakistano, e adesso pakistano. È italiano, però, perché ha preso la cittadinanza italiana. Sì, è italiano. 20 anni benissimo. Di attesa sul campo per avere la cittadinanza. Mi sembra che lui, come dire, sposi i valori del paese che non solo lo ha ospitato, ma che gli ha dato la cittadinanza. Sì, giusto. Mi pare adesso. No, ma non è così. Se no sarebbe contro la Costituzione se fosse così, cioè beh, credo, no? Credo. Non è che vuol portare qui. Con la mia religione, allora, quanti sono le persone che gli islamici fondamentalisti, che secondo me esistono, che vogliono portare qui la Sharia? Secondo me sono pericolosi. Allora, la Sharia è un ordinamento giuridico che può essere rifatto alla religione islamica, e di per sé è un ordinamento giuridico, non c'è nulla di sbagliato. A lei piace? A lei piace la Sharia? Ma la Sharia è, non so come dire, è la giurisprudenza islamica. La giurisprudenza islamica è ricca di... Ma come, guardi, io sono un giurista e non posso... A lei piacerebbe introdurre in Italia la Sharia? Ma adesso prendiamo un esempio provocatorio. Se prendessimo la poligamia e la introducessimo, forse meno persone che vanno a fare le corna in giro, no? Beh, amico mio, la dobbiamo produrre nell'ordinamento o facciamo, va bene così, facciamo, cioè, i cordini senza pensare. Meglio la poligamia delle corna, dice lei. Ma che ne so, io manco sono sposato, quindi che figuriamo. Beh, però a lei piace la poligamia come istituzione? No, io come l'istituzione la conosco, piace o non piace, l'ho detto, manco sono sposato, figuriamoci. Appunto, per evitare... No, ma perché no? Più due o tre mogli va bene, come no? Io sono... Cioè, lui deve conosco dimostrare... tante persone che hanno due o tre donne. Rendere quel vincolo anche in qualche modo, come dire... sacro, e renderlo pubblico non so se è poi così sbagliato, se c'è nel nascosto dalla possibilità è peggio nascosto. Senta, invece diventa assolutamente rilevante se le donne dicono beh, e io che faccio, e io lì ve lo dico, io non so rispondere in che senso. se poi le donne dicono poligamia anche per me, io sinceramente non so rispondere. Ma è poligamia per me tu dici più uomini per no quando lo intende poligamia intende proprio quello che è abbastanza comune. Parenzo, lasciamo cadere questo discorso, che è meglio. Allora, no, è meglio. Scusa, tu quante donne hai? Abbiamo sentito quello per che abbiamo sentito. Dai, no? Forza, dai. Per lui tu sei un poligamico. Cioè, lui diceva quelle finanziate ingiustificabili. Ma io non giustifico proprio nessuno, infatti. Lei spera che l'Italia sia un paese islamico? No, no, no, io spero che l'Italia sia un valore che prima di tutto concretizzi i suoi valori costituzionali, che ancora quelli non abbiamo realizzato. Ma lasci perdere i valori costituzionali, ma lei spera che l'Italia spera che l'Italia sia un possa diventare un paese islamico? No, non l'avevo mai collocata tra le mie speranze, sinceramente. Non ho capito, se l'Italia fosse un paese islamico saremmo meglio, secondo lei? Ma conoscendo gli italiani, secondo me saremmo uguali. In che senso? Cioè, l'Islam esiste in tantissime culture, ci sono gli arabi, ci sono gli indiani. In che senso conoscendo gli italiani saremmo male? Non ho capito. No, ha detto, conoscendo gli italiani staremo comunque così come stiamo, avremo comunque qualcosa di cui lamentarci. Quindi Islam o non Islam. Scusi un attimo, l'Islam esiste in tantissime culture, è quello, sì, cioè c'è in Africa, c'è in India, lei, c'è in scusi, Indonesia, diciamo che la cultura Turchia. Italiana garantisce anche all'Islam, vabbè, di esprimersi, cioè a lei di essere religioso in base alle regole italiane. Consente al signore Assesiedi di dire che la poligamia va bene, questa è la grandezza. No, io non è che la poligamia va come no? Charlie Hebdo, lei l'avrebbe portato in tribunale, Charlie Hebdo? Charlie Hebdo, io li avrei portati in tribunale e condanno veramente chi ha fatto invece quell'altra cosa è orribile. Cosa? Portarli in tribunale sarebbe stata una cosa giusta. Ah, portare in tribunale i signori di Charlie Hebdo, qui non siamo nemmeno padroni, sì, di pigliare per il culo il profeta e Maometto. Dillo, ma ti rendi conto? Nome. Sì, Maometto, certo, non siamo in grado, non possiamo, ma come no? Ma no, noi vogliamo come Dio, come Gesù Cristo, come il Vaticano, gli altri, pigliamo per il culo tutti, pigliamo per il culo tutti. In Italia ti io non galera, bestemmi, eh. Bestemmi è un'altra cosa. Se tu bestemmi, ti portano in galera, qua, ripeto, ti fanno un processo. Cioè, se lo facesse con Vaticano, aspetta, la faccio parlare con un signore. Dovrebbero portarvi in tribunale anche loro. Ma, bene, allora se uno ha le vignette contro il Papa, le vignette contro il Papa in tribunale. Ma io ho sentito troppo. Ma certo, Donato, ma poi fai tu. Magari il tribunale dà ragione a uno all'altro. Donato, vuoi dire? Aspetta, non vuol dire mica questa violenza. Amico, siede tu che sei. Va a accertare una cosa e si dice, ma questa cosa andava fatta o non andava fatta? E arriva una sentenza. Aspetta, che dice, amico mio. Guarda che poteva essere fatto, guarda che non poteva essere fatto. Sì, vabbè, quindi, ma questo si sa. Non me lo deve spiegare lei come funziona il tribunale in Italia. Donato, aspetta, c'è Donato da Varese, che è un nostro abituale ascoltatore, molto incazzato sull'Islam, che le vuole dire due cose. Non si incazzi, lui è una persona molto verace. Donato, mi raccomando, vai. Spero lui sia capace di rispettare anche meglio. Di intendere, di volere. No, sì, Donato. Io rispetto tutti, soltanto che io sono un cristiano, proprio un cristiano con la C maiuscola. Certo, io vorrei domandare. Ecco, però il discorso è questo, che per farlo soltanto un esempio, il Marocco, e mi sembra che sia più del doppio, come superficie quadrata, più del doppio dell'Italia, no? Vabbè. Però a me non risulta, che in Marocco ci siano 1.600.000 cristiani. A me non mi risulta che in Marocco ci siano. Che vuol dire questo? Aspetta. Mi sono documentato. Non siede, fai finire, Donato. Allora, che vuoi dire, Donato, su questo? Che vuoi dire con questo? Non ho capito. Vuol dire che noi, è inutile che ce la vogliamo raccontare, perché noi pensiamo sempre in positivo, ma noi siamo già islamizzati. Io ve lo dirò, finché un islamico non mi venga a uccidere. Non siamo voi già. Voi pensate che qualche islamico già mi ha detto so dove ti trovi. Pensi un islamico mi ha detto a me già so dove ma ti trovi. Ma chi? Quale islamico? Io non mi permetterei mai di dire a un islamico qualora ma lui guarda che me lo dico, me lo dicono a me un sacco di gente, sappiamo dove ti trovi, io napoletani. Io non mi permetterei mai di dire a un islamico, sì. di dire vengo a cercarti perché tu hai offeso il mio Dio della Bibbia. Poi vorrei dire a questo signore che sta in un paese cristiano, Paese laico. L'Islam è nato nel 600. Io non sto mancando di rispetto al signore, io sto parlando cognitive. Dunque, allora l'Islam dice Allora, io vorrei sapere, l'Islam è qui, noi siamo già islamizzati, lo sappiamo già, no? Vabbè, quindi vorrei sapere, vorrei che la signora, lei come islamizzato, cazzo è venuto su questa terra, con la C maiuscola, in mezzo a questi fedeli, io voglio sapere, signore, cosa è venuto a fare in questo paese cristiano, millenario, cristiano, va bene. Vuoi sapere che cazzo, quali sono i loro fini? Perché io starei male nel loro paese, nel loro paese, io soltanto vedere gli islamici, la loro religione che a me non piace, non lo so, io starei male. Che cazzo vogliono fare 1.5 milioni di islamici qui, però non ho neanche in mente una soluzione, cosa facciamo? Mandiamo i 30 milioni di musulmani che sono presenti in Europa, in Palestina, in Italia, mandando un decreto di espulsione, tutti gli islamici fuori. Tutti gli estranei fuori. Non tanto, certo. Francamente. No, anzi, sarei d'accordo perché magari allora, se sono allora un noi, allora noi, fra, allora da noi qui in avanti vedremo fiumi di sangue. Abbiamo soltanto quel povero Israele che c'è lì un grandissimo stronzo che lo rappresenterebbe tra virgolette, cioè un povero Israele che viene martoriato da chi sa potesse avere anche torto. Allora Israele se non avesse la bomba atomica, Israele già sarebbe andato, voi l'avreste già distrutta Israele. Voi l'avreste già distrutta Israele, voi lo sapete che l'avreste distrutta. L'avreste distrutta Israele. Che sto dicendo, sono contro la distruzione di qualsiasi cosa. Però siete, allora lei domani mattina chiami tutti gli islamici che non dovrebbero stare su questo suolo, ma non perché io li odio, perché siamo diversi. Io adoro Yahweh, lo conosci, è il Dio della Bibbia, non è il Dio del Corano. Aspetta, Donato, fermo lì. Tu hai un altro padre, un'altra storia. Ci uccideremo, io non sono un assassino, i nostri figli moriranno perché siamo incompatibili, cromosomicamente siamo diversi, ci uccideremo. Te lo dico domani mattina, diamo a tutti gli esami del TSO a Milano, falli andare in strada, ha consigliato un TSO, siamo contro l'ISIS, noi non abbatteremo nemmeno una chiesa. Allora aspetta, fermo Donato, fermo un attimo. Allora siete, concludiamo questo incontro, scontro con il signor Donato D'Avaresi in questo modo. Ci sono due elementi. No, uno, perché non fate una manifestazione invece di fare le manifestazioni contro Libero? Non fate la manifestazione contro il terrorismo, contro quello che è successo a Parigi? Non fare nessuna manifestazione contro Libero e invece le manifestazioni contro l'ISIS ne abbiamo già fatte tante. Ma non mi pare, non mi pare di averla. Eravamo in Piazza Fontana e io sto facendo in modo di promuovere. Non mi pare, non mi pare. Quello che non mi va di farle, non mi va di farle solo con gli islamici. Contro questa roba ci dobbiamo. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Perché non fate una bella, una bel sit-in da qualche parte contro i terroristi e invece di querelare Libero? Dai, su. Ma io querelo Libero e faccio una manifestazione anche contro i terroristi. Mi sembra legittimo. Questa ancora la voglio vedere. Ancora la voglio vedere la manifestazione. La voglio vedere questa manifestazione. Lei considera. Lei viene a fare la manifestazione con. Ma facciamo una trasmissione. Ma io non farò affatto io non vado alle manifestazioni. Scusi, lei considera. Lei non va alle manifestazioni, ma impone agli altri di farle. No, c'ha ragione, però. C'ha ragione. Ma perché no? Perché ci devo andare per forza. Perfettamente perché ragione. Ci devo andare per forza, io non ho capito. Ma no, ma è patetico quello che dici. Cioè, gli imputi a lui. Ma scusa, perché sono. Ma certo, perché lui musulmano, coordinatore di associazioni islamiche, quelli ammazza il nome dell'Islam, dovrebbe essere il primo incazzato e il primo a fare una manifestazione. Non impongo nulla. Non dire cazzate. Non impongo nulla. A Piazza Fontana. Ma quale manifestazione? Non si è visto nessuno, dai, manifestazione. Quanti musulmani ci sono in Italia? 1,5 milioni? Scendano in piazza, 300.000, 400.000 in massa. Musulmani? Mi spieghi perché i musulmani perché gli altri sono. E perché devo scendere con quelli con cui faccio solo la preghiera del venerdì, ma non con quelli con cui faccio la ma tutti distingo, dai, tutti distingo. Tutti distingo, dai. Ma sì, vabbè, poi si uniranno gli altri, si uniranno. Intanto fatela voi. Io non vedo il voi e noi, è quello Reas, il problema. Ma fatela voi islamici. Io non vedo il noi e voi. Ma sì, credenti islamici. No, perché è un cittadino italiano. No. Ti dice un cittadino italiano di fede islamica. Non di fede islamica. Va bene, allora non è nemmeno islamico. Ma certo che è islamico. Ma scusa, ma se sei tu il primo ieri ad aver detto che è meglio sposarsi tra ebrei o è meglio sposarsi tra cose. Non esiste questa cosa adesso. A parte che io con te di strano qui non parlo perché è di una superficialità inaudita. Io ho detto. È arrivato il professore. Sì, no, ma non voglio. Siccome qui bisogna semplificare per forza. Scusami un attimo, secondo te quelli che non sono musulmani sono infedeli? Secondo te? Ma appartengono a una diversa fede, alcuni non credono in niente. Ma sono infedeli o no? Perché siccome il Corano dice che sono infedeli, sono infedeli? Sì. Sono infedeli. Secondo quel sistema sono infedeli, ma infedeli, cioè io per un cristiano sono infedele allo stesso modo. Ma non mi pare proprio, ma non sei infedele in quel senso, ma non è una diversa fede. Sono infedeli, vabbè, uno che non crede, così sono infedeli. Ho capito, ma infedeli il Corano lo interpreta da assoggettare, da indottrinare, da convincere nel migliore dei casi, sì o no? No, fare proseliti è presente in tutte le religioni, cioè fare proseliti è una componente di varie religioni e c'è anche nell'Islam. Conosco religioni che non lo prevedono, ad esempio la religione Bahá'í vieta e anche quella ebraica non prevede nessun tipo di evangelizzazione. Reas, grande battaglia, ti ringrazio, ciao. Grazie a voi. Ciao. Fa male solo a chi non sa ridere, è la zanzara. La zanzara. sono giorni che degli ascoltatori mi mandano un discorso che è di 10 anni fa, credo, del primo ministro australiano John Howard. L'hai letto pure tu, David? No, no, non l'ho letto. Sono poco ferrato sulla politica australiana. No, ma non c'entra niente l'Australia, è un discorso che riguarda l'Occidente, l'Islam, i musulmani, eccetera. John Howard disse nel 2005, se non sbaglio, dunque una decina di anni fa, una cosa che però può valere anche per i tempi di adesso. Prendere o lasciare, sono stanco che questa nazione debba preoccuparsi di sapere se offendiamo alcuni individui o la loro cultura. La nostra cultura si è sviluppata attraverso lotte, vittorie, conquiste portate avanti da milioni di uomini e donne che hanno ricercato la libertà. La nostra lingua ufficiale è l'inglese, non lo spagnolo, il libanese, l'arabo, il cinese, il giapponese o qualsiasi altra lingua. Di conseguenza, se desidera, alcuni dicono che sia un fake questa cosa, però mi piace credere che sia vera. La nostra lingua ufficiale è l'inglese, non lo spagnolo, il libanese, l'arabo, il cinese, il giapponese o qualsiasi altra lingua. Di conseguenza, se desiderate far parte della nostra società, imparate nella lingua. La maggior parte degli australiani crede in Dio. Non si tratta di obbligo di cristianesimo, di influenza della destra o di pressione politica, ma è un fatto, perché degli uomini e delle donne hanno fondato questa nazione su dei principi cristiani e questo è ufficialmente insegnato. È quindi appropriato che questo si veda sui muri delle nostre scuole. Se Dio vi offende, vi suggerisco allora di prendere in considerazione un'altra parte del mondo come vostro paese di accoglienza, perché Dio fa parte della nostra cultura. Non accettiamo le vostre credenze senza fare domande. Anzi, noi accetteremo le vostre credenze senza fare domande. Tutto ciò che vi domandiamo è di accettare le nostre e di vivere in armonia pacificamente con noi. Questo è il nostro paese, la nostra terra, il nostro stile di vita e vi offriamo la possibilità di approfittare di tutto questo. Ma se non fate altro che lamentarvi, prendervela con la nostra bandiera, il nostro impegno, le nostre credenze cristiane, il nostro stile di vita, allora vi incoraggio fortemente ad approfittare di un'altra grande libertà australiana, il diritto ad andarvene. Se non siete felici qui, allora partite. Eccetera, eccetera. Non vi abbiamo forzati a venire qui, siete voi che avete chiesto di essere qui. Allora rispettate il paese che vi ha accettati. Io l'unica cosa che non condivido di questa cosa, se è vera, è la storia di Dio. Io invece adoro un paese laico che non fa nessun riferimento a Cristo, a Dio, alla religione cristiana, eccetera, eccetera. È una bufala comunque, mi dicono, ma mi piace credere che sia vera in qualche parte. Traffico, il traffico è il problema. La Zanzara. Cruciani, dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. It's early in the morning, the sun comes out. Last night was shaking and pretty low. My candy is powdering, it scratches my skin. So what is wrong with Rice? Ciao, Reas. Ah, Reas, scusami, no, mi sono dimenticato di chiederti una cosa, poi riprendiamo con gli ascoltatori, che è questa, è sempre il coordinatore dell'associazione islamica Milano e Monza. Senti, ma se tu nel tuo circolo, no, nella tua associazione, tra le associazioni di cui sei coordinatore, sì, conosci una persona estremista che predica l'odio, che fai? No, assolutamente lo denuncio. Ah, lo denunci subito? Ti credo. Cioè lo denunci alla polizia immediatamente? Beh, certo, alle forze di ordine. Diciamo. Aspetta che non si sente, Reas, lo denunci subito, sì o no? Sì, lo denuncio subito e dice, è quello che diciamo anche alle persone di farlo. Signori, la sicurezza è di tutti, è nostra. Di cioè, se incontri un estremista, il quale. Scusa, voi in moschea invitate, nel caso vi capiti di incontrare qualcuno, invitate a denunciare se vedete qualche esaltato, qualcuno no, che vi sembra pericoloso. Non credo che lo faccia. Allora, è già successo, è successo un episodio, però riguardava uno che veniva e nascondeva sotto il tappettino della moschea, nascondeva droga ed è stato denunciato. Vabbè, la droga è un altro per discorso. Dire. Però guarda, ma se uno è reato come tanto qualsiasi altro reato, ragazzi. Perché non dici chiaramente, scusami, Reas, perché non dici l'Islam violento mi fa schifo? Allora, la violenza mi fa schifo. Ah, ma quello a tutti fa schifo. È la mia religione. Ma ho capito, l'Islam è violento. Ho capito, ma questi sono islamici. No, allora questo mi fa impazzire. Perché uno dice l'Islam violento non mi fa schifo? Non riesco a capire. Perché l'Islam non è violento, è uno simoro. Allora, questi qua in nome di che cosa uccidono? Hanno ammazzato quelli gridando Allah Akbar, non è che hanno gridato. Per un islamico vero hanno profanato il nome di Allah. Le persone che dicendo Allah Akbar fanno un sacco di bei gesti ogni singolo giorno. Quindi all'Akbar, io lo dico tante volte anch'io al giorno. Lo so, capito, quelli però l'hanno detto mentre massacravano la gente, in difesa, che andava a vedere un concerto. Ma infatti, ma il gesto che... amico mio, però dicevano all'Akbar, non è che dicevano Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Non è che fanno come buddisti, non è che si mettevano a mettere come buddisti e poi sparavano con mitra, non succede. Dicevano all'Akbar, quello è, non è che facevano Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, tutto col mitra, no? Facevano all'Akbar, e amico mio, ma come non cambiava niente? Però è un dato di fatto, mi fa impazzire questa cosa. Non è che facevano, ripeto, com'è che fa in ebraico? Come si dice in ebraico? Non lo so, dimmi una frase in ebraico. Ma non lo dico perché può essere... Ma dimmi una frase in ebraico, non sto facendo un discorso serio. No, perché diventa una pagliacciata. Tutto una pagliacciata. Beh sì, diventa una pagliacciata, se uno lo usa diventa una pagliacciata. Non ti preoccupare che me lo faccio. Dillo tu in ebraico, ma diventa una pagliacciata. Una pagliacciata. Dicendo una cosa semplice, quelli che ammazzano non lo fanno, non è che dicevano, ma no, dicevano Allahu Akbar. Lo sappiamo bene, certo. Allahu Akbar. Ma ci mancherebbe altro. Erano delinquenti che avevano condanne penali già di 6, 7, 8. Ma sì, ma però erano islamisti. Erano islamisti. Non era l'islamista moderno. Non era l'islamista, no. Potevano essere anche cristiani. Potevano essere anche cristiani. Ma qualunque persona l'avesse fatto un gesto orribile, capisci? Sì, ma l'Islam non c'entra niente, l'Islam non c'entra nulla, benissimo. La religione non c'entra niente. È un percorso, ma non c'entra niente, cioè con gli assassini dell'altro giorno la religione non c'entra niente. Ma certo, mi stai che c'entra, ma ci mancherebbe altro. Che c'entra, la religione è l'elemento sta dicendo che questo. Ha spinto quella roba, quelli non hanno capito niente della religione. Vabbè, ciao Reasso, ciao. Ciao. Ernesto, Roma, vai. Pronto, Cruciani? Oh, amico mio, Ernesto, sì, come ma stai? Che li fate parlare a sta questi coordinatori? Dice, ma che c'hanno le unghie di acciaio? Sta fatto un'arrampicata sugli specchi, si capisce bene dal tono della voce, da come risponde, dall'inflessione che ce l'hanno a morte con noi occidentali. È inutile, è tempo perso, ci hai provato, sei stato bravissimo, ma cacchio! Non invitate più, la strada verde. Ma è bella sta cosa, padre nostro. È bella sta cosa, padre nostro che sei nei cieli, sei santificato. Non si è visto però. No, però è successo nel passato, per carità, con la croce, Gerusalemme, le cose, però oggi non succede, sì, in pochi casi. Non è che uno fa. Com'è che fanno i buddisti? Non mi pare, non accade. Però vabbè, va bene, così chi se ne frega? L'Islam non uccide, va bene tutto, per carità, querelate libero, portate in tribunale Belpietro. Voi avete visto Belpietro che spara a qualcuno? Avete visto Belpietro con mitra in mano? Io non ho visto Belpietro con mitra in mano. Però querelate Belpietro, per carità. No, ma infatti in Occidente funziona così, in Occidente funziona che alla spada è sostituito il diritto. Bene, da qualche secolo. Il problema è Belpietro. Ernesto, che non vuoi dire? Non è Belpietro, è il diritto. What do you wanna say? Volevo cosa dire vuoi dire? I mandanti dell'ISIS e dei terroristi sono tutti governanti occidentali, con la complicità vostra, di voi giornalisti della strapazzo. Me lo spieghi dopo, aspetta Ernesto, questo è interessante, me lo spieghi dopo anche i giornalisti della strapazzo. Fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Ma fammi capire, quelli che ti dicono che gli islamici sono tutti pezzi di merda, li fai parlare. Chi invece ti vuole dire che la colpa è tutta la nostra, tu lo fai parlare. Com'è sta storia? Ti do il numero mio francese, mi chiami, io sto qua, sto in Francia, chiamami. Dai, ma è ridicolo, questi qua alla manifestazione dei giovani musulmani paragonavano Netanyahu a Hitler e sti imbecilli di Parenzo li difende pure. Cioè, fossero, se dipendesse da loro, Parenzo sarebbe il primo a essere scoiato. Ma di che parliamo? Cruciani, ma ascolta una roba, ma se Parenzo domani mi scopa la donna, io cosa dico ai miei amici? Bastardi quelli della Zanzara o bastardo Parenzo? Grazie, aspetto la tua risposta. Allora, sempre 393. Sale il livello culturale, vedo. Non c'entra niente il livello culturale. Era un esempio di quello che fai tu, un po' più greve, un po' più ma è... Ho detto sale il livello culturale. Ma che vuol dire? Di chi? Sale dell'ascoltatore. Ha fatto un esempio che era dall'altro, dalla parte tua, diciamo, da un certo punto di vista. Sale il livello culturale di come lo ha esposto, diciamo, no? Sempre di più. Non c'è da dare giudizi sul livello culturale. Beh, c'è da dare, sì, loro lo danno su di me, lo do su di loro. No, comunque, ma guarda che al contrario, una roba stava dicendo, seria, stava dicendo una cosa esattamente nella tua direzione. Cioè, nel senso che non direbbe la zanzara. Non entro neanche nel merito di come l'ha detto, perché non mi interessa, sono fatti suoi. Ma invece mi interessa di più perché. Ma perché ti fa così schifo la gente? La volgarità mi fa schifo. Ti fa schifo la gente. No, la gente è tutt'altro. La volgarità gratuita. Ma questa non è la volgarità, è un esempio. È un esempio. Comunque mi ha scritto invece Abdallah Kabakevici, che non sentivo da anni, purtroppo, che è un dentista siriano, che in Italia, in italiano, bravissima persona, che vive a Milano. Bravissima persona. E mi ha scritto una lettera molto lunga che non ti leggerò su Facebook. Sì. Per cui mi ha mandato una foto che pubblicherò della sua partecipazione con la moglie alla manifestazione contro il terrorismo di sabato. Ottimo. Però la cosa che mi interessa di più è quello che mi ha scritto. Sì. Sabato sono andato in Piazza Fontana alla sedia di solidarietà e so che va ribadito in ogni sede la netta condanna del terrorismo senza. E lui è molto religioso, è un islamico ortodosso. Sì. Poi mi scrive: certo, ti assicuro che il clima che si è venuto a creare in Italia mi ha messo un filo di apprensione per gli atteggiamenti a scuola verso le mie figlie. Ed infatti stasera a cena abbiamo parlato un'ora come non mai. Hanno sentito parole strane da parte di alcuni compagni e gli insegnanti hanno rimediato come potevano, ma non le ho mai viste sentirsi straniere o sulla difensiva nel mio paese, cioè l'Italia. Mi dispiace. Continuo a restare ottimista. E avendo visto il titolo di Libero, anch'io esprimo il mio sdegno e vorrei che ci fosse una querela, perché io sono un cittadino italiano e merito rispetto. Ma che c'entra la querela? Allora, il titolo di Libero è riferito agli assassini, non c'entra questa niente. Questa persona non solo merita rispetto, ma questa persona è dalla parte nostra, perché è un italiano. E chi dice il contrario? Che vive qui. Chi dice e l'avete offeso. Chi l'ha offeso? Avete offeso lui, ma di la che sua parli? Famiglia, ma tu stai parlando... e le sue figlie, ma stai attribuendo... che magari sono in classe con la tua, e che non sono dei bastardi. Tardi, come avete detto voi. Ma tu sei completamente pazzo. Condiviso. Tu sei pazzo. No, no. Tu dovete prendervi la responsabilità. Tu sei di quel completamente che fate. Pazzo. Perché voi tu dovete... sei completamente non si pazzo. Non gioca più. Game Daniele over. Da Roma. Game Daniele over. Da Roma. Dai. Hai condiviso Ernesto, una cosa vergognosa. Ma vai, e ha offeso vai, anche questa vai persona. Vai a querelare Libero. Perché vai, io vai, non querelo nessuno. Va, perché io non sono offeso. Non hanno offeso me. Bastardi islamici quelli che hanno ucciso. Punto. È quello che penso io. Bastardi islamici quelli che hanno ucciso. Ernesto da Roma. Il giochetto. Quale giochetto? Dopo per è quello spiegarlo. Che penso, non rompere i coglioni, mica però l'ho fatto io il titolo. Ormai l'apprendista stregone ha perso il giocattolo, vai, capito? Gli apprendisti stregoni italiani ma vai a fare un comizio, ma vai a fare un comizio. Con i titoli, Ernesto. Stanno per il giocattolo. Ma dillo sta sfuggendo Belpietro, di mano. Sfida Belpietro, lo dico a tutti, non rompere i coglioni a me, Ernesto. Quando lo vedo io lo dico perché ma non c'è problema. Ma che vedi, in tribunale lo devi vedere. Io no, quando porta in tribunale Ernesto da Roma. Ma io non porto in tribunale nessuno. Si confronta con le minchiate che dici. Ernesto, quindi si confronterà con le tue cose molto intelligenti. Io riesco a parlare. Vai, dimmi, vai. Allora, volevo dire, a parte ma pazzi, uno può fare un titolo di un giornale rivolto a quelli che hanno ucciso. I coordinatori islamici che abbiamo fatto prima, che è meglio non invitarli per niente. Noi i mandanti dell'ISIS sono tutti governanti occidentali, a partire da Obama, la Merkel, lo stesso Renzi, perché per sconfiggere l'ISIS bisogna togliere l'acqua al pesce, ossia andare da quelli che li finanziano, mettersi seduti a un tavolo e dire che cazzo volete per finire di rompere i coglioni. Cioè bisogna trattare con l'ISIS. Non sono altre, fare guerra ai terroristi, si perde 10-0 perché c'hanno i foreign fighter, sono infiltrati. Questi ti cogliono quando vuoi tu, quando vai al bar, quando vai a pisciare, quando vai a cacare, ti prendono quando vogliono loro, è inutile parlare di guerre. Beh, è una teoria questa qua, Parenzo, non è una stupidaggine. Sì, questo è vero, questo è vero. Non è una stupidaggine. Ma c'è addirittura qualcuno questa è la mia idea che sostiene, che certo. Se Parenzo se sta zitto. Hai ragione, c'è qualcuno addirittura che sostiene, credo sia Massimo Fini e anche qualcun altro che l'ha pure scritto, che andrebbe riconosciuto lo Stato Islamico, sì, l'ISIS, per poi trattare. Sì, qualcuno sì. L'ha scritto, io ovviamente non lo condivido perché non va riconosciuto proprio niente, ma va bombardato. Ma c'è chi lo sostiene in Occidente, qualche, sì, assolutamente. Come dire. Ora hanno sospeso di nuovo, siccome adesso voglio fare questo giochetto con Facebook, no? Ovviamente io so benissimo che Facebook è una roba che non è che ci sia una Spectre che decide di cancellare un profilo, di sospendere un profilo, ma sono le segnalazioni e c'è un automatismo che io trovo ridicolo per una grande società come Facebook. In automatismo sospendono gli account. Quando me l'hanno riattivato oggi, ho rimesso di nuovo questa cosa qui. Vediamo se sospendono di nuovo. E ho scritto: il titolo di Libero è geniale. un'opinione, no? Può essere contestabile, come la contesti tu, naturalmente. Tu dici che offendo gli islamici, va benissimo, cioè ci sto a questo gioco, cioè a questa contrapposizione. Però ho scritto questo, sarà nel mio diritto scriverlo, no? Il titolo di libro è geniale. Già fatto poster, in produzione una maglietta speciale. E ho messo di nuovo il titolo di libro. Ora io vorrei capire qual è il problema nella sospensione di un account Facebook in cui semplicemente si dice di essere d'accordo con un titolo. Può essere contestabile, e tu l'hai contestato, altre persone lo contestano dicendo che è una cosa da disprezzare, che sono un coglione, una testa di cazzo, un imbecille, ci sta, sono abituato, non è quello il problema, che offendo le persone, non c'è nessun problema. Ma perché sospendono l'account? Io vorrei capire questo, non è che lo voglio chiedere a Zuckerberg. Perché è un po' come quando io blocco su Twitter quelli che offendono oltre un certo limite. Ma non c'entra niente, ma non è un'offesa questa. Non è per questo che sospendono. Ma si vede che il codice etico di questa azienda... No, ma non c'entra niente, no, ti assicuro che non è quello il punto. Fosse quella la cosa, sarebbe più comprensibile. Lo contesterei, ma sarebbe comprensibile. Invece no, sono le segnalazioni di utenti i quali segnalano delle robe e in automatico, dopo un po', sospendono di nuovo. Cioè non si può scrivere che Libero ha fatto bene a fare quel titolo, capito la follia? Cioè si può contestare, si può dire il terrorismo sono dei geni quelli là, però questa roba qui no, cioè è pazzesca, dai. Daniele, Roma, vai. No, io penso che se qualcuno scrive che quelli terroristi sono delle brave persone, immagino e mi auguro, non lo so. Altrimenti sarebbe una farsa sicuramente. Non lo so, guarda. Se fosse vero quel che dici, cioè se uno scrive sarebbe una farsa, che non credo. Ma non lo so, perché su queste cose che vanno in automatismo. Se uno fa l'elogio del terrorismo, immagino che gli bloccano il profilo, ma sicuramente, anzi è successo un sacco di volte. Ma il professor Lutwak ce l'abbiamo in collegamento? Il professore? Sentiamo un po' se ce l'abbiamo il professore in collegamento. Professore? Risponde o no? Professore? In America, il professore. Ciao. Professore? Sì. Eccoci qui, la Zanzara, come va? Prego. Come va in America? Paura dell'ISIS in America o no? No. Come mai? Voi siete più sicuri in America? Esatto. Siamo più lontani e poi c'è qualche tipo di controllo sull'immigrazione, invece di zero controllo. Senta professore, ma cosa bisogna fare adesso? Attaccare ISIS subito, fare subito una bella guerra come vuole fare la Francia, che però non trova molti alleati, eh? Beh, la Francia non ha bisogno di molti alleati, dopo tutto lo Stato islamico non è esattamente la Germania di Hitler, sono dei scalmanati, sì? Sono pochi, sono male addestrati, sì? e sanno soprattutto uccidere gli inermi. Sì. Combattere contro soldati non è mai successo. Le autorità turche, siccome Erdogan è un sunnita fanatico, sì? Naturalmente lui non vuole agire contro lo Stato islamico, sì, di fanatici sunniti. Lui agisce contro a livello nazionale. Per cui già abbiamo capito qualcosa. C'è un problema che riguarda l'alleanza di fatto tra la Turchia e l'ISIS. Che è molto importante. Senza l'alleanza di fatto fra l'islamista, sì, e gli islamisti che governano la Turchia, lo Stato islamico non avrebbe potuto fare questi passi avanti. Sì, sì, ho capito. Questo, anche negli ultimi 3 settimane, la forza aerea turca bombarda i curdi. E perché siamo andati a fare una conferenza lì? Nemici dello Stato islamico. Ecco, perché siamo andati a fare una conferenza lì in Turchia? Per ipocrisia, allora? Esattamente, perché si mantiene questa delusione, la delusione che la Turchia, il governo Erdogan della Turchia, il governo dell'AKP è un alleato. Bisognerebbe abbattere il governo turco? No, il fatto che loro non sono alleati, questo non vuol dire che bisogna andare a batterli, dico solo che far finta che sono alleati è una cosa nociva. Sì, ho capito. Quando tu non hai neanche il coraggio di nominare il tuo nemico e fra l'altro chiamarlo Stato islamico e non chiamarlo ISIL come fa Obama, ISIS, sì, o PISIS o CISIS, se non hai neanche il coraggio di nominare il tuo nemico, se non hai il coraggio di distinguere fra i tuoi amici e i tuoi nemici, è inutile fare queste cose. Ma che è un cane, professore? Che ha un cane dietro di lei? No, non è un cane. Era uno starnuto. Molto peggio, c'è un animale selvaggio. Come un animale selvaggio? Chi è? Un jaguar. Come un jaguar? Un giaguaro? Esatto. Cioè lei ha un giaguaro in casa? Assolutamente. Ma che ci fa col giaguaro? E saranno cazzi suoi. Devo proprio andare. No, un attimo, due secondi, professore. Ma si può convivere secondo lei con l'Islam? Professore? Ho messo giù. Mamma mia, in America. Ma che cazzo c'ha da fare in America a quest'ora? Beh, cosa sono? 8 ore indietro, eh? Daniele da Roma, vai, 800240024, siamo in chiusura, eh. Vai, vai, ciao, grande serata. Ciao, Cruciani, giustamente Paolo Ruffini mi dice, interrompiamo un po', qualche ora fa, me lo diceva in realtà, un'ora fa, interrompiamo un po', qui sono con la signora del Bufalo, grande sostenitrice, Diana del Bufalo, grande sostenitrice della figa pelosa. Effettivamente, la grande differenza che c'è tra noi e l'Islam è anche nello sviluppo del porno. E nella grande industria del porno, comunque dell'approccio che c'è col sesso. Io sono molto felice di vivere in questa società piuttosto che in una società islamica dove fanno le cose molto di nascosto, perché non è che non le fanno, eh. E comunque questo è il punto, capito? È anche questo, è anche questo. Daniele, vai, dimmi, caro. Buonasera, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io volevo dire due cose apparentemente distanti ma che coincidono. Non so se voi avete sentito un senso di agghiacciante quando intervistate questi fighetti islamici italiani che apparentemente sono tutti liberati, però quando Cruciani, che è l'unico giornalista che ha le palle di metterli proprio alle corde, gli dice, ma allora sui temi importanti tipo gli infedeli, la bigamia, la poligamia, li vedi che diventano reticenti e tu capisci perfettamente che sono ostili, loro si nascondono, ma in realtà quando ci sarà, se ci sarà speriamo no, una resa dei conti, caro Parenzo, ma tu da che parte credi che loro siano? Non dimenticate che loro hanno iniziato la loro religione nel nostro 620 d.C., quindi loro sono nel 1400. Vi ricordate che cazzo ha fatto la religione cristiana nel 1400? Ha fatto più morti del nazismo. Loro sono in pieno aggressività medievale e religiosa. Una parte di questi paesi sicuramente. È vero. Ecco, quindi diciamo le persone più aggressive del mondo in questo momento sono gli unici che hanno alle spalle una grande religione monoteista per la quale si uccidono e muoiono. Ho capito, ho capito. Roberto Pesaro, per chiudere, dai, no, dobbiamo chiudere, ragazzi, ci sentiamo domani, tanto c'è tempo, A domani 18:30, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.